sono le 13. GR24, il sole 24 ore. Processo Mediatrade, Berlusconi Show a Milano, all'uscita è andata bene, ma c'è chi lo contesta. Lampedusa al collasso, due coniugi aggrediti in casa, igiene drammatica, il Ministero della Salute invia ispettori. Libia e ribelli combattono per Sirte nel giorno del passaggio del comando alla NATO. Parlamentari Paperoni, il Premier sempre in testa, tra i ministri Brunetta, La Russa e Tremonti i più ricchi, gli italiani risparmiano invece il 60% meno di 20 anni fa. Buongiorno dalla redazione, buongiorno da Anna Migliorati. Scambio di accuse tra opposte manifestazioni fuori dal Palazzo di Giustizia, dentro un'aula blindata. Milano è tornato così in un'aula del Tribunale Silvio Berlusconi e all'uscita è stato show, come dicevamo nei nostri titoli. Allora ci racconta tutto Raffaella Calandra. Sì, buongiorno. Da una parte il gazebo dei suoi sostenitori, dall'altra chi gli urlava dimissioni. Al centro lui, che a Radio 24 assicura: è andata bene, ci sarò anche la prossima volta. Silvio Berlusconi torna dopo 8 anni nell'aula di un suo processo, quello Mediatrade, e tiene banco sia dentro che fuori il tribunale. Non vuole rispondere però il Premier alla nostra domanda sul caso Ruby. Sentiamolo. Presidente, com'è andata questa mattina? Bene. Pensa che la possa danneggiare la vicenda Ruby? No, questo è un altro processo. Posso andare? Verrà anche la prossima volta, Presidente? Sì. Sì, tutte le volte? Spero di sì. Ha salutato il PM Pasquale? Sì, certo. Salutato tutti. Bene. Mentre parla sul predellino dall'altra parte dell'auto, un cuscinetto antiproiettile copre la sua schiena. Prima per 2 ore in un palazzo blindato Berlusconi era stato nell'aula del processo a porte chiuse, perché ancora in udienza preliminare Mediatrade, dove è accusato di appropriazione indebita e frode fiscale, e non è escluso un suo possibile interrogatorio già il 4 aprile, prossima udienza, 2 giorni prima dall'inizio del processo Ruby, per il quale appena pochi istanti fa i suoi avvocati hanno depositato una copiosa lista testi. E mentre il giudice del caso Mediatrade, Maria Vicidomini, era in camera di consiglio, il Premier ha ripetuto, parlando con gli avvocati, che è costretto a venire in tribunale, mentre negli altri paesi i presidenti si difendono solo quando non lavorano. Ha raccontato poi che i figli lo invitano ad andare via, ma lui ripete che vuole restare e vuole portare a termine la riforma della giustizia e delle intercettazioni, e che ora, ha detto, senza Fini e Casini come alleati sono più liberi. Però, e per ora dal tribunale tutto. Grazie a Raffaella Calandra. Noi invece apriamo ora la finestra sulla Libia, sulla situazione di oggi, giornata in cui la NATO ha assunto il comando delle operazioni. Domani è previsto un summit a Londra per fare il punto, ma intanto sul campo i ribelli oggi avanzano. Vincenzo Miglietta. Sì, buongiorno. E dunque la NATO da oggi a difendere i civili e le aree popolate della Libia dalle minacce e gli attacchi delle forze fedeli al colonnello Gheddafi. I 28 paesi facenti parte dell'alleanza hanno dato infatti il via libera al comando all'Alleanza Atlantica. Cambia anche il nome dell'operazione, da Odissea all'Alba si passa a Protezione Unificata. Di tutto questo si parlerà comunque nel summit di domani a Londra. Al centro dell'incontro tra i paesi coinvolti nella crisi nordafricana vi sono la messa a punto dei piani e delle regole di ingaggio. La diplomazia è al lavoro, tra l'altro, per trovare un compromesso con l'Unione Africana che non faccia sembrare di fatto l'intervento sulla Libia appannaggio solo dei paesi occidentali, e per convincere la Russia sulla legittimità dell'intero intervento. Si parlerà fondamentalmente anche degli interventi umanitari. Sul fronte militare intanto proseguirebbe verso ovest l'avanzata dei ribelli, la stessa Sirte, città natale di Gheddafi, sarebbe sotto il fuoco degli insorti e sul punto di cadere. E da Roma è tutto, linea allo studio. Grazie a Vincenzo Miglietta per questi aggiornamenti. C'è anche una notizia dell'ultima ora che riguarda invece lo Yemen, dove sarebbero almeno 70 i morti nell'esplosione stamani di una fabbrica di munizioni nel sud del paese. Sarebbe stata saccheggiata, secondo alcune fonti, da presunti terroristi di Al-Qaeda. Si parla anche di altre 90 feriti, tra i quali dei bambini. Altro fronte, quello dell'immigrazione, arrivi sempre numerosi a Lampedusa, l'isola sempre più al collasso, lo abbiamo sentito nei nostri titoli, ora c'è preoccupazione per l'ordine pubblico ma anche per la salute. Andrea Viali. Sì, è così, Anna, è sempre più emergenza a Lampedusa, dove soltanto ieri, lo ricordiamo, sono arrivati quasi 2.000 migranti e in tutto ce ne sono più di 6.000 sull'isola, dove ieri sera una coppia di coniugi è stata aggredita e derubata nella propria abitazione da un gruppo di nordafricani che hanno colpito il marito con un pugno e poi sono fuggiti con orologi e gioielli. È un episodio che rischia evidentemente di alimentare nuove tensioni, questo mentre il Ministero della Salute ha deciso di inviare i suoi ispettori a Lampedusa per verificare le condizioni igienico-sanitarie e si sta anche valutando l'ipotesi di mettere in quarantena addirittura tutta l'isola. Per fare fronte agli sbarchi, il ministro dell'Interno Maroni ha minacciato anche i rimpatri forzosi in Tunisia e l'accordo con le autorità tunisine, che non sta dando i risultati sperati, sarà al centro del Consiglio dei Ministri che è stato convocato per mercoledì mattina. La situazione in queste ore è tesa anche a Mineo in Sicilia e a Manduria in Puglia, nei centri dove vengono trasferiti gli immigrati che sbarcano a Lampedusa. Qui proseguono le proteste degli abitanti ma anche le fughe. Il ministro dell'Interno Maroni ha anche ricordato alle regioni che tutte dovranno farsi carico dei profughi ad eccezione dell'Abruzzo. Profughi sì, ma clandestini no, replica il governatore veneto Zaia al microfono di Cristina Carpinelli. Sentiamo le sue parole. Quando parliamo di profughi ovviamente c'è una disponibilità a ragionare. Il problema è quando parliamo di clandestini, nel senso che siamo convinti che i tunisini che stanno sbarcando in queste ore, nella stragrande maggioranza dei casi, non scappino da fame, da carestie e da guerre civili. A me risulta che comunque un profugo non arrivi con le scarpe da ginnastica belle luci, dei jeans e il giubbottino griffato con il telefonino in mano. Voglio anche ricordare ai più esperti che c'è una legge da rispettare in Italia che prevede che la clandestinità sia un reato e che spesso questi ragazzi fanno la traversata, pagano 2.000-2.500 euro a testa e sono spesso nulla facenti oppure anche nei peggiori dei casi magari anche dei criminali che sono scappati dal patria galera. E sarà fatta sicuramente una giusta vagliatura di tutti questi personaggi che arrivano, ed è bene che magari mandandoli a casa vadano anche a dire ai loro conterranei che in Italia si ospitano le donne, i bambini, i vecchi, gli anziani e gli uomini che scappano dalla fame e dalle guerre civili, che sono dei rifugiati politici. Grazie ad Andrea Viali. Ed aggiungere che questa mattina, come sempre nel nostro sondaggio di 24 mattina, vi abbiamo chiesto oggi: secondo voi l'Italia sarà in grado di gestire l'emergenza immigrati? Il 75% degli ascoltatori di Radio 24 ha risposto no. Voltiamo pagina. Quanto guadagnano ministri e parlamentari italiani? Ve l'abbiamo raccontato nel corso di questa mattina. Allora torniamo a curiosare tra i redditi dei politici. Ancora una volta lui, inarrivabile con i suoi 41 milioni di euro, Silvio Berlusconi è l'uomo più ricco del Parlamento, reddito quasi raddoppiato in un anno, nel 2009 ne aveva infatti dichiarati 23, a grande distanza seguono gli altri leader di partito, Fini con 186 mila euro, Rutelli con 182 e poi Di Pietro, Bossi e più in basso Bersani con 137 mila e ancor più giù Casini con 106. Tra i ministri invece il più ricco è La Russa, 374 mila euro, anche qui però nulla a che vedere con i 41 milioni del Premier, seguito da Tremonti e Brunetta. I più poveri, si fa per dire, Romani e Galan. Anche al Senato non se la passano male. Con 1.300.000 di imponibile, il paperone lì è Umberto Veronesi, ex senatore del PD dimessosi per assumere la carica di presidente dell'Agenzia per la Sicurezza Nucleare. Mentre tra i capigruppo, Finocchiaro batte Gasparri, seppur di poco. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Roma. E cala invece il risparmio delle famiglie italiane, a fotografarlo Confcommercio, Mariano Bella, responsabile ufficio studi, al microfono di Maria Piera Ceci. Nel 1990 più del 20% del reddito disponibile delle famiglie consumatrici andava al risparmio, oggi ne va al risparmio meno del 10%. Se poi prendiamo il livello assoluto di questo risparmio a testa, pro capite, cioè per ognuno di noi, per ciascun italiano, ai prezzi del 2010, quindi al netto dell'inflazione, siamo passati da un risparmio pro capite di 4.000 euro l'anno del 1990 a 1.700 euro del 2010. È vero che c'è ricchezza accumulata e quindi la propensione al consumo è potuta crescere anche perché c'era quella ricchezza da consumare, ma un paese che non risparmia è comunque un paese che avrà difficoltà a crescere, bisogna invertire questo trend. E chi investe invece sono gli americani, quelli che hanno comprato la Roma Calcio. Con me in studio Dario Ceccarelli. Tuo fa l'americano, americano. americano. Sienta me chi don fa fan. Eh sì, l'America è arrivata a Roma nella persona di Thomas Di Benedetto, 61 anni, l'imprenditore di origini salernitane che guida la cordata Stelle e Strisce interessata all'acquisto del 60% della Roma. Il manager è arrivato nella capitale per definire gli ultimi passaggi della trattativa e l'incontro sta svolgendosi adesso presso l'Istituto Legale Grimaldi. Dovrebbe concludersi mercoledì con la firma. Gli americani dovrebbero versare 77 milioni. I am very happy, ha detto questo ex italiano che guida la cordata. Il mio sogno è far vincere lo scudetto alla Roma e di essere competitivi nella Champions League. Il manager parla anche di 6 colpi di mercato, fuochi d'artificio, eccetera eccetera. Bene gli entusiasmi, ma ci sono dei problemi. Uno è quello del bilancio, cioè riportare la società nei parametri del fair play finanziario. L'altro è l'ambiente, questo contrasto che c'è tra American Business e spaghetti alla matriciana. La Roma, pur essendo la squadra capitale, è una squadra anomala, più da piccola città che da metropoli. Affetti caldi, emotività, simboli forti e ultra giocano una parte importante nella gestione della società. Conciliare questi due aspetti non sarà facile. E grazie a Dario Ceccarelli. Allora al calcio, per il calcio c'è anche la nazionale. L'Italia cambia 7 giocatori, queste le novità di questa mattina rispetto alla partita di Lubiana contro la Slovenia. Per l'amichevole di domani a Kiev, un'occasione importante per Aquilani nel ruolo di centrocampista offensivo e Giuseppe Rossi in coppia con Girardino. La formazione è stata ufficializzata questa mattina dal CT Cesare Prandelli. GR24, le notizie di oggi, processo Media Trade, Berlusconi Show a Milano, all'uscita dice è andata bene ma c'è chi lo contesta. Libia ribelli verso Sirte nel giorno del passaggio del comando alla NATO, Lampedusa al collasso, 2 coniugi aggrediti in casa, igiene drammatica, il Ministero della Salute invia ispettori. Tra pochissimo andiamo come promesso in Giappone con le ultime notizie sulla centrale nucleare di Fukushima, ma prima c'è una notizia dell'ultima ora appena battuta dalle agenzie che riguarda Paolo Maldini, l'ex terzino del Milan e bandiera rossonera, è stato rinviato a giudizio, l'accusa per lui è corruzione e accesso abusivo al sistema informatico. Maldini, secondo l'accusa, avrebbe dato soldi a un funzionario dell'Agenzia delle Entrate per aggirare i controlli fiscali, affidandosi a lui anche per una verifica illecita relativa ad un'operazione immobiliare che voleva portare a termine. L'ex giocatore della nazionale era presente questa mattina in tribunale a Milano quando il giudice ha letto la sua ordinanza, proprio in contemporanea alla presenza nel Palazzo di Giustizia milanese di Silvio Berlusconi, presidente del Consiglio e anche del Milan. Questa è la notizia degli ultimi minuti, veniamo ora invece, come dicevamo, al Giappone. La radioattività all'esterno del reattore numero 2 di Fukushima ha registrato infatti questa mattina un balzo, un portavoce del governo ha confermato che ci sarebbe fusione nel nocciolo, anche se parziale. Acqua fortemente radioattiva è stata rilevata all'esterno dell'edificio. I pozzi, lo ricordiamo, si trovano a una 60 di metri dal mare. L'acqua contaminata potrebbe essere filtrata fino alla riva. Ad invitare allora alla prudenza è Greenpeace. Vanessa Quinto ha parlato con Alessandro Gianni, direttore delle campagne di Greenpeace proprio per il nucleare. Quello che noi chiediamo è che assolutamente venga evacuato non quello che serve al governo, ma quello che serve per tutelare la salute delle popolazioni. Noi a 40 chilometri di distanza abbiamo rilevato livelli pericolosi, sono pericolosi soprattutto per le donne incinte e per i bambini. Invece il governo quanti chilometri avrebbe previsto? 20 per l'evacuazione obbligatoria e poi 20-30 ed è una evacuazione consigliata. Qual è l'impatto degli elementi radioattivi sulla popolazione? In questo caso abbiamo 2 isotopi, uno è lo iodio 131 che è molto pericoloso perché lo iodio si accumula nella tiroide dove può provocare il cancro quando è radioattivo, però decade anche molto rapidamente, quindi è un effetto locale. Il grosso dell'esposizione a radiazione immessa nell'ambiente sarà dovuta al cesio, come del resto fu anche nel caso di Chernobyl. Il problema del cesio che invece ha una durata molto più lunga, si dimezza in 30 anni, quindi praticamente diciamo la radioattività diventa trascurabile in 300 anni. E quanto pesano le vicende del nucleare anche in Europa? Ha pesato la vicenda nucleare sull'esito delle elezioni in Germania nel fine settimana? Andiamo da Beda Romano, buongiorno. Buongiorno. Nucleare, quanto pesa anche in Germania? Ma ha certamente pesato in queste elezioni del Baden-Württemberg e direi anche in Renania-Palatinato. Prima dell'incidente atomico di Fukushima i Verdi erano in risalita nel Baden-Württemberg, ma certamente l'incidente nucleare ha provocato una spinta molto forte, tanto che a questo punto i Verdi sono ben oltre il 20% e sono diventati il secondo partito del Baden-Württemberg, che è un grande land della Germania meridionale. Quindi direi che l'incidente di Fukushima ha senz'altro influenzato il risultato finale di questa tornata elettorale in Germania. La domanda a questo punto è: quale sarà il futuro della Merkel? Tu stesso hai scritto: i paralleli storici possono avere la vita corta, ma aiutano a chiarire la portata degli eventi. Il Partito Democristiano della signora Merkel ha perso le elezioni nel Baden-Württemberg, rimane il primo partito ma non è in grado di formare una maggioranza e quindi per la prima volta in quasi 60 anni deve lasciare il potere ai socialdemocratici e ai Verdi. Ed è una sconfitta cocente per la signora Merkel, non c'è dubbio. Per certi aspetti si potrebbe fare il parallelo con il 2005, quando il Nordrhein-Westfalia decise per un importante cambio di maggioranza, il Land era stato governato per 40 anni dai socialdemocratici, ci fu la sconfitta dell'SPD e il passaggio alla CDU. In quella circostanza quella sconfitta portò alla fine alle elezioni anticipate e alla disfatta di Schröder. Non credo che siamo in questo momento nella stessa fase politica. Per la signora Merkel si apre un momento incerto e arduo, semplicemente perché non ha più la maggioranza al Bundesrat, dovrà quindi trovare dei compromessi con l'opposizione socialdemocratico a livello federale e inoltre credo che dovrà fare i conti con tensioni sempre più forti all'interno del suo partito e con forti recriminazioni. Quindi in riassunto, la signora Merkel dovrebbe rimanere cancelliere fino alla fine della legislatura nel 2013, ma saranno due anni complicati. E grazie allora a Beda Romano, staremo a vedere cosa ci aspetterà. Tra nucleare e Libia sta cambiando la politica in Europa e una svolta sembra prefigurarsi anche in Francia. Nuovi sondaggi sulle presidenziali francesi della primavera del 2012 sono arrivati ieri sera a chiusura delle urne delle cantonali per sancire il momento difficilissimo anche per Nicolas Sarkozy, che verrebbe eliminato in ogni caso al primo turno, questo secondo i sondaggi. Marine Le Pen, leader del Fronte Nazionale di estrema destra, si qualificherebbe per il ballottaggio eliminando Sarkozy. Allora sentiamo chi è Marine Le Pen. Alta, bionda, giovane, poco più di 40 anni, spesso in jeans e maglietta, divorziata con due figli. Un bel sorriso e un'affascinante voce roca, ma anche uno sguardo duro che ne svela il carattere. Marine Le Pen è diventata in pochi mesi l'indiscussa protagonista della scena politica francese. Il compito non era facile: trasformare l'immagine del Front National, il partito di raccolta dell'estrema destra francese, da movimento ossessionato dagli slogan sull'immigrazione e la sicurezza, destinato alla marginalità e all'esclusione, come era stato costruito dal padre Jean-Marie, a partito presentabile e votabile, scommettendo, complice la crisi, sui grandi temi sociali: il lavoro, la povertà, la lotta alla grande finanza disumana e avida di profitti, con l'obiettivo di creare a destra un nuovo polo di aggregazione dell'elettorato più popolare e qualunquista. Operazione che apparentemente le sta riuscendo. Quello che solo pochi mesi fa sembrava impossibile, sfidare al secondo turno delle presidenziali il candidato socialista, ora è uno scenario che popola di incubi le notti del presidente Nicolas Sarkozy. Torniamo in Italia. Vittime di un'intossicazione alimentare o provocata dall'acqua di una piscina termale durante una gita scolastica, 14 studenti del liceo Zanelli di Reggio Emilia sono finiti all'ospedale di Abano, mentre la guardia medica, sostengono le insegnanti, avrebbe risposto di non poter intervenire perché non erano veneti. A causa dei messaggi dei ragazzi su Facebook, in rete è montata la polemica, ma l'assessore alla sanità del Veneto dice: nessuna cura rifiutata, si tratta di un fraintendimento. Lo ha intervistato Maria Luisa Pezzali. La guardia medica sembra che abbia detto, considerato che l'ospedale di Abano era vicinissimo, l'opportunità migliore era quella di andare in ospedale per essere seguiti meglio. Ma da lì a dire che c'è stato un rifiuto o che in Regione Veneto, che non è assolutamente vero, esiste una legge dove si curano solo i veneti, tecnicamente non è possibile che esista una legge del genere. Va contro la Costituzione, sarebbe stata impugnata e cassata immediatamente. Certo è che verranno fatti tutti quanti gli approfondimenti nel caso attraverso questa relazione, attraverso gli audit, e si farà chiarezza sulla questione, e comunque sia chi ha sbagliato paga. L'effetto è stato quello di un'assistenza negata. Ma direi assistenza negata assolutamente no. C'è stato un consiglio da parte della Guardia Medica che verificheremo se corrisponde ai protocolli o meno, per essere seguiti meglio, di recarsi presso l'ospedale. E restiamo alla cronaca. 29 le vittime degli incidenti avvenuti su strade e autostrade italiane nel fine settimana. Tra questi tre ragazze, 19, 20 e 21 anni, sono morte in un incidente stamani poco prima delle 4 a Porto Sant'Elpidio, in provincia di Fermo. Viaggiavano a bordo di un'auto che si è scontrata quasi frontalmente con un furgone. Il conducente dell'altro mezzo è rimasto illeso. Ed è morta anche la donna di 46 anni che ieri ha prima accoltellato la figlia di 8 anni e poi si è lanciata con la ragazzina dal quarto piano di un palazzo alla periferia di Roma. Era ricoverata all'ospedale Sant'Eugenio. Il Fondo Unico per lo Spettacolo. Radio 24 continua la sua campagna, continua a monitorare la situazione. Dopo l'annuncio del reintegro del Fondo per lo Spettacolo da parte del Governo, c'è apprensione ancora nel mondo dei teatri e delle fondazioni. Il varo definitivo del decreto Omnibus, che contiene appunto lo stanziamento di 149 milioni, è infatti slittato a fine mese. La causa? La presenza nel decreto anche di un'altra norma contestata, quella sull'aumento degli assessori, dei consiglieri e dei rimborsi nei comuni con più di 1 milione di abitanti. Il direttore artistico del Piccolo Teatro di Milano Escobar parla così al microfono di Adriana Fracchia. Da quando faccio questo mestiere sono preoccupato e non bisogna mai sottovalutare i passaggi in cauda veneno. Credo però che grazie a molti che hanno creduto si sia girata pagina sulla legittimità o meno dell'investimento in questo settore. Adesso bisogna essere molto attenti che dopo aver girato pagina, aver affermato che questo è un investimento e che quindi la legittimazione è basata su ciò che la cultura fa e deve fare, sempre meglio deve fare, il resto bisogna stare, come dire, a guardia del bidone di benzina, ma francamente mi pare che impensabile che non si sia voltato pagina. Quindi siamo sempre preoccupati, ma secondo me una pagina è stata girata. Mi sembrerebbe davvero inverosimile che si torni indietro rispetto a ciò che si è riuscito a far capire, a dimostrare in un momento di grandissima difficoltà come era l'assenza di fondi. Adesso che i fondi sono stati stanziati mi rifiuto di pensare che possa accadere, che quelle ragioni vengano meno per dei passaggi tecnico-formali o simili. Mi rifiuto di crederlo perché sono per definizione ottimista, se no non fai questo lavoro. E a Bologna in mostra ci sono i libri per ragazzi. 1200 espositori provenienti da 64 paesi sono da oggi fino a giovedì a Bologna per la Children's Book Fair, la più importante fiera espositiva del libro per bambini e ragazzi che si tiene in Italia. Quest'anno gli editori puntano soprattutto sulla fascia di età 0-3 anni, con proposte sempre più colorate e materiali sempre più innovativi. Sono proprio le new families, con figli in età prescolare, il gruppo sociale attualmente più propenso all'acquisto di libri nel nostro paese. Tra gli appuntamenti da non perdere della fiera, l'incontro con Brian Selznick, autore della straordinaria avventura di Hugo Cabret, dal quale Martin Scorsese sta realizzando il suo primo film in 3D con un cast di stelle. L'editoria per ragazzi ha fatturato lo scorso anno 198 milioni di euro, con una crescita del 5,3% rispetto all'anno precedente, meglio del comparto adulti, che ha segnato un più 3,6%. Francesca Barbiero, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E in regia Filippo Aureggi, GR24 si ferma qua, vi lascio Italia in controluce, ancora una buona giornata da Anna Migliorati. GR24, Il Sole 24 Ore, direttore Fabio Tamburini.